La ragazzina, sudicia, che aprì la porta, fissò Emanuela e senza toglierle gli occhi di dosso le indicò una porta grigia nel fondo del corridoio. La casa odorava di soffitto, le porte delle stanze erano spalancate e mostravano un vecchio seduto nella poltrona dondolo, un bambino accovacciato per terra. Emanuela bussò alla porta grigia, chiamò «Vinca!». Da dentro s'udì una sedia spostata di scatto. La ragazza correva. «Oh, Emanuela!». Vestiva Vinca in foggia maschile. Portava calzoni grigi lunghi, pantofole e una camicia semplice con le maniche rimboccate. Appariva più magra e consumata da dentro. I capelli, tagliati appena più corti del solito, s'abboccolavano, ricadevano senza arte e tuttavia con morbidissima grazia. Gli indumenti mascolini che la ragazza indossava non riuscivano a dominare la spontanea femminilità del suo aspetto e dei suoi gesti. Sorrise Emanuela con entusiasmo e la tirò nella stanza tenendola quasi abbracciata. La camera non era così sporca e ripugnante come il resto della casa. Alle pareti c'erano i disegni di Luis, qualche veduta di Spagna, di Cordova, negli scaffali i trattati di architettura, sul tavolo le squadre, le righe, i compassi. Accanto al letto di Vinca molte fotografie di lui. Questi che Vinca portava erano i suoi calzoni. Spiegò che aveva ripreso quegli oggetti dallo studio. Non li ha richiesti. E se li richiedesse non glieli darei, ma lui certo non pensa più a queste cose. Cambiò discorso volutamente. Ti piace questa camera? Penso che abbia un suo carattere. Non ti sembra? Si muoveva per la stanza cercando di mettere un po' d'ordine, confusa dall'imprevista visita dell'amica. Su un tavolo c'erano gli avanzi di un pasto. Un pacchetto di salati, pane, una mela. Lei dissimulò tutto questo dietro una pila di quaderni, passò una mano sul tavolo a scacciarne le briciole e, presa una sedia, sedette accanto a Emanuela. «Scusami», le disse, «è un bazar qua dentro. Senti odore di spirito? La macchinetta è difettosa. Trovi un po' di tutto, sai, mangio qui, lavoro, dormo. È il disordine delle stanze di noi donne sole, però mi ci trovo bene. I padroni di casa sono brava gente e mi piace il quartiere. La strada è caratteristica. Tutte queste finestre tengono compagnia. Mi sembra di prendere parte alla vita di quelli che abitano nel vicolo. Di sera spesso spengo la luce per non essere vista e mi metto alla finestra, all'osservatorio. In una casa, proprio di contro, abita per esempio una famiglia di operai. Il padre torna a casa dopo il tramonto, stanco, si butta a sedere alla tavola, la moglie gli mette davanti un piatto di minestrone freddo, gelato, che si potrebbe tagliare a fette come la polenta. I figli, cinque, alti così, si dispongono a cerchio attorno alla tavola, in piedi, ci arrivano appena con la testa, e fissano il padre che trangugia quella minestra, la divorano con gli occhi sgranati dal desiderio. E lui ogni poco prende una cucchiaiata e imbocca un figlio a turno, senza parlare. Quando il piatto è vuoto, incrocia le braccia sul tavolo e dorme. E i ragazzini se ne vanno. È pittoresco. Sì, la miseria è sempre pittoresca. Al piano di sotto invece c'è una sarta. Si vedono i manichini nella cucina e ma... Ma che te ne importa di tutto ciò? Senti, hai fatto proprio bene a venire. Io non ho più visto nessuna di noi di lettere. Mi ha scritto Silvia che sta bene, ha molte soddisfazioni. Un tipo in gamba, Silvia, non trovi? Eccezionale, diritta, tutte vorremmo essere come Silvia. È vero, rispose Manuela. Eppure certe volte mi dava l'impressione che avrebbe voluto essere lei come noi. Ma forse. Ma non potrà mai divenirlo, qualunque cosa accada. Io ho cercato di rendere la mia vita simile alla sua, il mio modo di pensare, senza riuscirvi, che vuoi fare? Sei più tranquilla, Vinca? Boh, secondo quello che tu intendi per tranquillità, mi sono trovata molto sbandata sul principio. Ho faticato per trovare un orientamento. Adesso ho parecchie ore di lezione la settimana, mi bastano per vivere. Mi sono potuta anche comperare un paio di scarpe. Poi si chinò verso Emanuela, poggiò i gomiti sui ginocchi, disse più piano: Se è questa che tu chiami tranquillità, per il resto, sai quando è tremendo, quando torno a casa la sera, apro la porta, la camera è al buio e devo accendere la luce. Mi costa grande fatica girare l'interruttore e rivelare questa mia sconsolata solitudine. Certe volte mi metto a parlare da sola ad alta voce per tenermi compagnia. Un giorno m'ha udito il figlio della padrona. Non so se l'hai visto entrando. Un bel bambino. Si è messo a ridere. Non parlava di Luis. Lo teneva vivo attorno a sé, vestendo gli abiti di lui. Contemplava i disegni, rileggendo le lettere. Forse in certi momenti ella stessa non sapeva se era Vinca o Luis. Entrando nella camera dopo le lezioni, si vestiva così ed era come se lo ritrovasse lì ad attenderla. Parlava ad alta voce, illudendosi di sentirlo parlare, e questo mescolarsi di oggetti maschili e femminili, della sua personalità e di quella di lui, le faceva credere in una loro vita comune. Non era triste, non parlava del passato, non sapeva neppure che Manuela aveva lasciato il collegio, che abitava in albergo, che stava per partire per un lungo viaggio. Vai anche in Spagna? Le chiese, e alla risposta negativa si disinteressò dell'itinerario, come se altri paesi non esistessero. Sei contenta di partire? Oh, molto contenta. E Andrea che dice? Andrea? Ah già, tu non sai, Andrea. Oh, è finito tutto. Non ti dirò la ragione, altre te la diranno per me. Che importa la ragione? È finito, fece Vinca tranquilla. Era vero. Adesso in Emanuela le sofferenze passate riaffioravano e tutta la pena di Andrea e del collegio e lo strazio che aveva provato uscendo, udendo richiudersi la grande vetrata dietro di lei e quel senso di smarrimento che l'aveva colta lì nella strada, nell'automobile che la conduceva all'albergo, tutto ciò andava a raggiungere un altro mondo, distante e dimenticato, dove stavano Stefano, suo padre, e Milly. Un mondo di morti. Cose e persone diverse da lei, che la intenerivano, senza che tuttavia lei comprendesse. Non aveva compreso Stefano, né papà, né Milly. Questi ultimi giorni a Roma erano pieni di tedio e di impazienza. Il senso di provvisorio delle sue giornate la infastidiva come il rodio dei tarli in una vecchia casa abbandonata. Tutto, persone, sentimenti, idee che avevano formato il tessuto della sua vita di ieri ormai s'allontanava, sfumava, perdeva anche il suo rilievo come ricordo, come sensazione vissuta. Ma una fresca gioia si diffondeva in lei, come un sangue nuovo, la gioia di ricominciare, di rifarsi da capo, di aprire una finestra su un giardino ignoto. Andava incontro a cose e persone sconosciute, tutto un mondo da scoprire, e di questo si rallegrava perché sempre le piaceva accostare gente nuova e sperimentare il suo potere di fascino sugli altri. Le ultime parole di Andrea l'avevano amareggiata, afflitta. Solo Andrea l'aveva compresa a fondo, l'aveva messa brutalmente a nudo, rivelandole un'Emanuela umiliata e meschina, e ella sentiva ora un prepotente bisogno di liberarsi da quella cruda e molesta immagine, come d'un abito misero col quale si fosse inaspettatamente trovata vestita in una sera di festa. Eppure, solamente adesso, dopo averla sbatacchiata di qua e di là, l'esistenza la portava al vero punto di partenza per una vita data a lei. Una vita intima e sofferta le sarebbe stata impossibile. Non avrebbe resistito neppure un'ora in questa stanza di Vinca che guardava una squallida strada dietro il Tevere. Quel museo di cose morte tenute in vita per imbalsamazione le avrebbe fatto orrore. E Vinca, invece, là in mezzo, appariva serena. Emanuela parlava. Raccontava con entusiasmo del viaggio. Pochi giorni mancavano alla partenza e avrebbe voluto chiudere gli occhi e averli già trascorsi. Stefania aveva accolto la notizia freddamente. Un viaggio? Sì, un lungo viaggio su un grande bastimento. Andremo a vedere i moretti. I moretti? E le scimmie anche? Sì, anche le scimmie. Me ne compri una? Ah, ti comperò tutto quello che vuoi. Ah, bene, sono contenta. Niente più di questo. Intima con tutti, estranea a tutti, Stefania. Si sarebbe detto che avesse il carattere di Emanuela, eppure in verità era molto diversa da lei. Emanuela, nel lasciare il Grimaldi, commossa, diceva addio, addio a ogni angolo della scala, al cortile, alla cappella. Stefani era uscita dal collegio senza voltarsi indietro, aveva preso tranquillamente la mano dell'istitutrice che non conosceva, era entrata nell'albergo come se vi avesse sempre vissuto. Era di un'altra generazione, ancor più ragionatrice e indifferente. Ora Emanuela si domandava perché fosse venuta a trovare Vinca. Non poteva raccontarle tutto quello che l'aveva condotta a lasciare il Grimaldi, a partire. Sarebbe stato penoso e non era certa di essere compresa. Nei giorni scorsi era rimasta a lungo indecisa se salutare Vinca o no, e poi aveva voluto vederla senza precisa ragione, sperando istintivamente qualcosa da lei. Ma non sapevano parlare altro che di cose e persone del pensionato. Le loro esistenze nuove sarebbero rimaste inesorabilmente chiuse all'una e all'altra. Emanuela raccontava della madre superiora che sedeva, ormai rassegnata, al posto di quella vecchia. Entri e quasi non la vedi. Sta lì che dice il rosario o legge l'imitazione di Cristo. Ha lottato, si è ribellata. Temevano che impazzisse. Notte e giorno s'udivano i suoi passi nello studio, nella camera, senza pace. Ma le altre monache non si lasciavano sopraffare. La tengono prigioniera al posto che lei stessa si è creato. E si inchinano rispettosamente avanti a lei. Non tornerà mai ad essere Suor Lorenza di prima. Vieni avanti, figlia mia, mi ha detto. E abbiamo parlato un poco. Neppure conosce le nuove che sono arrivate. È rimasta ferma a noi, al nostro gruppo, a quello, insomma, che lei ha accolto in parlatorio. Segue il soccorso adesso, invecchia. Forse la credevamo molto più giovane. Sta lì seduta e aspetta che venga il suo turno di andare a Genova per morire. Ma non credi tu che in fondo tutti noi aspettiamo che questo? Le chiese Vinca. No, che dici mai alla tua età? Silvia ha scritto che teme di morire prima di aver compiuto tutto ciò che vuole. E anche io ho paura di morire. Mi sembrerebbe di non aver vissuto che un attimo. Tu non hai paura della morte? Io? Oh, io no. Forse perché ho già esaurito tutto quello che era nelle mie possibilità di gioia e di sofferenza. Rimasero fino a tardi a parlare. Cercarono di accostarsi il più possibile l'una all'altra, al mondo dove avevano vissuto, un mondo che si disfaceva, si perdeva nel nulla. Non avevano il coraggio di lasciarsi. Vinca la pregava, rimani. Ed Emanuela indugiava, cercava di prolungare quegli attimi che erano, tutte e due lo sentivano, l'ultimo lembo di una stagione della giovinezza. S'abbracciarono sulla porta, due volte, tre volte. Emanuela guardava Vinca affettuosamente, così magra in quei calzoni larghi. Vinca le carezzò la guancia e si lasciarono sorridendo, senza tristezza. Già della loro esistenza comune ormai non le legava più che un affetto tenace e distante come un ricordo. Appena a bordo, sistemati i bauli nella cabina, Emanuela risalì sopra coperta, attendendo che il piroscafo partisse. Ma era arrivata molto in anticipo, si capiva che era la prima volta che si accingeva a un viaggio così importante e temeva che la nave potesse andarsene senza di loro. Era un mattino chiaro, ma non caldo. Ella s'affacciò al bordo e guardò nel quieto specchio di mare ove l'Amazzonia era ormeggiata, opalescenti macchie brune aprirsi e richiudersi come occhi. Sembrava un mare artificiale, odorava di nafta invece che di salso. Imbarazzata per essere arrivata tanto tempo prima della partenza, osservava attorno con interesse, quasi a mostrare che era venuta presto per questo, però non riusciva a distinguere nulla con chiarezza. Il suo sguardo irrequieto vedeva solo su, su per la collina, oltre il biancheggiare della città, le macchie verdi degli alberi che, gonfi e cupi, sembravano trattenere una precoce calura estiva. I marinai, gli ufficiali, si muovevano tra arnesi e cose a lei inusitate, andavano e venivano chiusi in occupazioni, orari a lei sconosciuti, nessuno le badava. E lei si sentiva estranea come i primi giorni al Grimaldi davanti alle abitudini delle ragazze. Finiva per volgersi alla figlia e carezzarla sorridendole. Stefani ogni poco le chiedeva sempre con uguale intonazione: «Quando partiamo, mamma?» quasi che la madre dovesse dare il segnale della partenza, ed Emanuela rispondeva per quietarla: «Adesso, Stefi, adesso!» Per la passerella gente saliva, bagagli chiari ondeggianti sulla schiena curva dei facchini. Emanuela pensò con piacevole curiosità: «I miei compagni di viaggio, 5 mesi di viaggio, un passatempo per gente ricca!» Si salpava alla soglia dell'estate e si tornava col primo freddo autunnale, e le sembrava che in questo tempo, mentre lei era lontana, nelle città dove era vissuta fino allora, tutto ciò che di lei era stato dovesse disfarsi, disciogliersi, il vento dovesse disperderlo. Emanuela Andori è morta, poveraccia. Sua madre la dimentica e così Andrea, le compagne. Partiamo, mamma? Sì, amore, sta buona, adesso partiamo. Saliva sulla passerella una signora grigia con 3 figliole. La minore di esse, che aveva ancora le trecce sul petto, conduceva al guinzaglio un cane. L'adolescente si guardava attorno, spaurita da questo insolito avvenimento della partenza che si svolgeva tanto rapidamente da non avere il tempo di goderlo. Erano già sulla coperta. Le sorelle parlavano animatamente, cercando di rendere questo momento simile a ogni altro, far finta che non si accorgevano di partire. La nave avrebbe salpato e loro non avrebbero interrotto il discorso per un avvenimento di così poca importanza. E questo pareva alla minore una crudeltà. Perciò tirava a sé il cane, per sentirsi accanto una cosa casalinga, abituale. Lady Royal salì sorridendo, quasi fosse la madrina del bastimento Alvaro. Il comandante l'attendeva, un lungo, asciutto, calvo comandante. Anche gli altri ufficiali si inchinarono. E lei sembrava aver ragione di essere così piena di sé. Era bruna e alta, 40 anni almeno, e perle agli orecchi, perle al collo, perle alle dita. Vestiva di nero, portava un grande cappello, come se andasse a una cerimonia. Emanuela, vedendola salire con tanti onori, si scoprì infastidita ad essere lì sola con la bambina in disparte. «Non conosco nessuno, mi annoierò in questo viaggio, ho fatto male!» E Stefania chiedeva: «Quando si parte, mamma?» Le rispose stizzita: «Che ne so, Stefania, adesso si parte!» E intanto seguiva con gli occhi Lady Armilda Royal, che sorridendo imboccava la porta di una cabina sul ponte. Quasi avesse atteso l'arrivo della nobile dama, la sirena urlò. Quella sirena elettrica era l'unica cosa a bordo che sapesse veramente di mare, che avesse odore di scoglio, una voce prettamente marina, come se di sott'acqua qualcuno soffiasse in una gigantesca conchiglia. Gridava così la suora sera, quando le ragazze dovevano partire tutte insieme per le tenebre. Ogni sera a quel grido le ragazze sussultavano. Emanuela sentì il cuore batterle violentemente. Soltanto a quell'urlo della sirena s'accorse che partiva veramente. Intimorita, avrebbe voluto correre per il ponte fino alla passerella che già veniva ritirata. «Un momento, un momento!» E scendere di nuovo a terra, ansante, riposarsi sulla banchina, rinfrancata come per un pericolo scampato. E invece stava lì, immobile. Nessuno immagina che pensi queste cose. Accanto a lei, Stefania, eccitata dalla novità, aveva preso a saltellare e la madre le si rivolse duramente: «Sta ferma!» «Africa, Cina, Giappone. Potrei prendere qualche malattia e non tornare più.» Nessuno le aveva detto: «Sei pazza, che vai a fare?» L'avevano abbandonata, lei e la bambina. Negli ultimi tempi si era annoiata a Roma. Annoiata di tutto, voleva disfarsi di quella vita monotona. E adesso pensava invece con rimpianto: «Chissà che fa Andrea a quest'ora. Non sa che il piroscafo parte. E loro, le compagne, sono lì, s'affollano sulla banchina per salutare Manuela che se ne va. Sono venute tutte. Non è un'illusione. Le vede chiaramente. Sono venute per vederla un'ultima volta.» La nave si stacca, è completo silenzio, non ci sono rumori attorno, ma sarebbe inutile urlare adesso, è troppo lontana. Solo si vedono le loro mani agitare fazzoletti bianchi. Vinca è venuta, vestita da uomo, e fa addio senza sorridere. Augusta e Valentina si tengono per mano, Andrea col cappello buttato all'indietro e la faccia stravolta, come quel mattino che lei gli parlò al Pincio. «Qualcosa duole qua nel petto», seriò della voce di lui. «Nuela!» Ma non parla, non sorride, Andrea. La guarda. È inutile che lei gridi, aspettami, aspettatemi, ritorno. Non udrebbero. Bisognerebbe lasciarsi scivolare giù nell'acqua che si squarcia al passaggio della nave, tornare a nuoto e neppure tornare, lasciarsi cadere giù nel fondo. La scosse il rumore di qualcuno accanto a lei che si soffiava ripetutamente il naso. Era l'istitutrice della bambina che scaricava così la sua voglia di piangere, le guance, gli occhi, il mento accesi. Alzando il naso dal fazzoletto, disse, quasi a scusarsi: È sempre triste una partenza, madame. Alle 5 il tè. Nell'angolo migliore della coperta, al riparo, c'era la tavola di Lady Royal. Soltanto quando il suo gruppo abituale era riunito attorno a lei, ella, che stava sdraiata su di una poltrona, si sollevava dai cuscini, deponeva la sigaretta e cominciava il rito. La stagione era già avanzata per quella bevanda calda e tutti, dopo averla assorbita, si sentivano salire le fiamme al viso, alla testa. Il tè di seta, il tè rinfresca, diceva lei. Io non prendo che tè. E gli altri sorridevano e volentieri bevevano. C'era nel gruppo un pastore anglicano, biondo, roseo, con gli occhiali spessi sugli occhi miopi. Passeggiava sopra coperta leggendo la Bibbia, poi si arrestava, appoggiava un fianco al bordo e segnando con un dito la pagina interrotta, chiudeva il libro e restava a pensare. Era affabile, quasi galante. Emanuela fu felice di conoscerlo. Se ne parla tanto di questi pastori presbiteriani adesso, sono così alla moda, non si può aprire un romanzo inglese senza trovarne uno. E si attendeva sempre che gli compisse qualcosa di straordinariamente crudele, con occhio limpido, come si conveniva al personaggio, ma invece lui si contentava di passeggiare verso sera, la Bibbia tra le mani, un pastore per bene. Emanuele apprezzava al giusto valore il privilegio di trovarsi nel gruppo di Lady Royal, ne era quasi intimorita, anzi, ciò la rialzava ai suoi stessi occhi. Non si divertì molto sul principio, ma notava che quando loro stavano tutti insieme, gli altri passeggeri le guardavano con ammirata invidia e come se esse soltanto gioissero di un vero divertimento. E così lei stessa se ne convinse. Lady Armilda Royal, che viaggiava con un passaporto inglese, parlava italiano, francese, tedesco e qualche volta anche inglese, compariva sul ponte solo pochi minuti prima della colazione che prendeva alla tavola del comandante. I suoi vestiti erano sempre accurati e froscianti, vestiti pomposi. Emanuela, appena la vide, pensò: Beh, è una donna affascinante. E avrebbe voluto assomigliarle, muoversi come lei, parlare con quel tono indolente e disinvolto. Invece, lei, i primi 2 giorni, non seppe uscire dalla vita familiare che faceva con la bambina. Passeggiava per il ponte tenendola per mano. Non conosco nessuno perché ho la bambina, pensava. Tutti hanno paura del chiasso, sono fastidiosi i bambini, nessuno s'accosta a chi ha bambini. E invece, proprio grazie a Stefania, conobbe Lady Armilda Royal. Fu lei a parlarle, le chiese: È sua quella bambina singolare? Le ho offerto una caramella e lei, facendomi un inchino cortesissimo, mi ha risposto: Noi non ci conosciamo, signora. Ricordando l'episodio, Lady Royal rideva e il viso, già un po' sfiorito, si ringiovaniva di quel riso. Così, una parola dopo l'altra, Lady Royal non smetteva di guardare Manuela negli occhi, poi la prese sotto braccio e con lei cominciò a camminare sul ponte con quell'aria di protezione che aveva per tutti e certo intanto pensava che Manuela vestiva con molta eleganza, vestiti di buon gusto, vestiti cari. La presentò al gruppo, è la madre di quella bambina. Sibyl le fece subito posto accanto a sé sul divano a dondolo e ricominciando a dondolarsi le sorrise. Una ragazza americana di madre scozzese, aveva i capelli rossi, gli occhi verdi e la pelle bianca, imperfetta. Dopo pochi minuti che la si conosceva, raccontava che una volta le era stato detto che era di tipo italiano, un tipo del Tiziano, e rideva. Un bel sorriso tondo, pieno di denti. Sconcertante, ma attraentissima. Ho 19 anni, ma a 12 avevo già bevuto il mio primo whisky, diceva. Di fronte a lei, Emanuela rimase intimidita. I due fratelli inglesi che sempre accompagnavano Sibilla e Lady Armilda erano cortesissimi, ma parlavano poco e non ridevano affatto. Il maggiore di questi, mani ossute, rosee alle giunture, diceva seriamente barzellette, difficili giochi di parole, ma non era mai il primo a riderne. Un pianista polacco che era nel gruppo e non parlava bene l'inglese sorrideva scioccamente mentre gli altri si divertivano. Emanuela parlava bene inglese, francese, tedesco, piacque. Una creatura adorabile, disse sottovoce Lady Royal al vecchio principe. Un vecchio principe che viaggiava con una dama di compagnia, un'antica infermiera. Viaggiava tutto l'anno, scendeva da un piroscafo e dopo pochi giorni partiva con un altro, sempre in mare viaggiava. Era colto, amava la conversazione, mentre parlava traeva dalla tasca un fogliettino di carta bianca, liscia, e cominciava a piegarlo e ripiegarlo fino a formarne una barchettina. Appena l'aveva formata, interrompeva il discorso, la guardava un attimo, la posava lì vicino dove poteva, sul tavolo, per terra. Certe volte accanto a lui si aggruppava una flotta di barchettine candide, perfette. L'infermiera non aveva altro compito che andare dietro di lui, raccogliere le barchette, preparargli i foglietti di lucida carta bianca tagliati tutti uguali, precisi. A sera si riunivano in una saletta. S'appartavano, non volevano mescolarsi agli altri passeggeri e spesso il polacco apriva il grande piano a coda, spegneva la luce e suonava. Nella penombra si vedevano appena biancheggiare le perle di Lady Royal, le barchette che il vecchio metteva sul nero lucido del pianoforte. La ragazza americana non amava la musica, pure ascoltava mansueta, fumando, vuotando il bicchiere di whisky. Emanuela, invece, ascoltava occhi chiusi, beata, e intanto pensava a certe parole di Lady Royal. Creda, mia cara, nessuna cosa vale più di viaggiare, conoscere, vedere gente di altri paesi, di altre abitudini. In Egitto le presenterò un mio grande amico egiziano che vive a pochi chilometri dal Cairo, in una casa fastosa e bizzarra, un tipo che si innamora di tutte le donne, si innamorerà anche di lei. E lei aspettava tutto questo e pensava che sì, Lady Armilda aveva ragione, bisognava uscire dalla vita monotona che aveva condotto fino allora, aveva abbastanza denaro per fare ciò che voleva. I suoi non avevano saputo goderselo, era giusto che se lo godesse lei, e solo questo ambiente valeva la pena di essere conosciuto. Nessuno si domandava nulla, da dove si veniva, dove si sarebbe andati una volta scesi dal piroscafo. Chissà perché tutti facevano quel viaggio. Chi era Lady Royal? E perché la ragazza americana a 19 anni viaggiasse sola bevendo ogni sera così? E per quale ragione il pastore se ne stava 5 mesi lontano dalle sue pecore a fare il giro del mondo? Nessuno chiedeva nulla. Pensava che invece avrebbe potuto invecchiare nella vita borghese di Andrea, del padre, della madre, negozianti borghesi, felici, appagati solo perché avevano la corona reale sulla porta. 3 generazioni di gioiellieri, sempre ripeteva il padre. Ricordando questo, Emanuela ne aveva il solletico al naso per il ridere. Se non avessi avuto la bambina, a quest'ora sarebbe la moglie di Andrea. Provava un brivido per la schiena adesso a questa idea. Adorabile Stefania, non si era mai accorta la madre di come in realtà quella bambina fosse bella, intelligente. Lo dicevano tutti che era una bambina interessantissima, neppure di quello che valeva lei stessa si era resa conto finora, che era molto colta, molto colta. Al collegio le pareva di essere sempre l'ultima, la trattavano con aria di compassione, era per umiliarla, per soffocarla, adesso lo capiva, avevano paura di lei. Qui era sempre più colta delle altre. Col vecchio principe parlavano spesso di pittura e lei poteva dire tutte quelle belle cose che sapeva sul Correggio, che era il pittore che preferiva, e quegli aneddoti. Si capiva che al vecchio, il quale era modenese, tutto ciò faceva piacere. E infine, ciò che valeva era d'essere arrivata a vivere secondo i propri desideri, il proprio carattere. Lo diceva sempre anche Silvia. Silvia aveva tanti difetti, si lavava poco, non era una donna. Ma ogni tanto diceva qualche cosa giusta. Finito il notturno, il pianista sull'ultima nota reclinava la testa sul petto e restava così, le mani sulla tastiera. Biancheggiavano sul pianoforte le barchettine candide, tutte uguali, perfette. Hai ceduto, sì, ammise Lady Royal dopo lo scalo a Istanbul, ma sono così le americane, prendere o lasciare. E la prendeva perché era figlia di certe miniere di rame importantissime. Sibyl a Istanbul si era ubriacata, erano scese Lady Armilda, Sibyl e lei insieme ai due ragazzi inglesi e al polacco. Sibyl scolava un bicchiere dopo l'altro e intanto si impinzava di stucchevoli dolci turchi polverosi. Sembrava resistere benissimo. Fu di colpo che si rivelò ubriaca. Si mise a cantare con l'orchestra e il suo volto già aveva una sorridente incoscienza. Cantò poi per le strade, sul ponte, nella lancia che li riconduceva a bordo. Emanuela non aveva mai visto una donna ubriaca. Quei gesti molli, svagati e l'occhio fermo in un'espressione di animale beatitudine. Sul principio ne fu disgustata, ma dopo, vedendo che gli altri ne ridevano divertiti, rise anche lei. Tutti raccontarono di qualche volta che si erano ubriacati e lei cercò di cambiare discorso per non confessare di non averlo fatto mai. La questione è, pensava, che dopo il secondo bicchierino io proprio non ho più voglia di bere. Hai ceduto, sì, ma era molto divertente. Gli americani, continuava Lady Royal, bevono troppo perché non sanno contenersi. Non hanno l'esatta misura. Come i bambini che mangiano troppi dolci e poi hanno l'indigestione. Sono giovani gli americani. Sibilla è una bambina. Passeggiavano sul ponte. Lady Armilda le si appoggiava marcando, non si capiva se la sua età o il suo diritto. Emanuela sentiva sul suo braccio il braccio di Lady Royal, pelle liscia, molto liscia, non più giovane. Le perle davano iridescenza al biancore delle sue mani. Odorava di limone, freschissima. Emanuela era proprio contenta d'essere con lei a passeggiare sotto braccio sul ponte. L'ascoltava attenta quando venne a raggiungerla Stefania. Che cosa c'è, cara? Emanuela le parlava sempre con tono sdolcinato e distante, carico di tenerezza e di noia. Sono inquieta. Che c'è, tesoro? Mademoiselle dice che non posso avere ancora un gelato. Emanuela sorrise ampiamente. Sorrideva così da quando erano sulla nave. Un sorriso che le stava benissimo. Anni ci vogliono, diceva Lady Royal, prima di conoscere quello che ci sta bene. Si conosce certe volte proprio quando si sta sul punto di perderlo. Anche saper fare e dire le cose bene è, come il ben vestire, questione di esperienza. Ma sì, certo, tesoro, puoi averlo, amore, il gelato. Diceva queste parole con strascicata dolcezza per far notare che faceva qualunque cosa per la bambina. Niente conta per lei più di sua figlia. Che bambina fortunata. 10, 20 gelati e i biscotti. Quindi, come stanca di questo sforzo, si volse di nuovo a Lady Armilda e la bambina scappò via di corsa pensando che bisognava sempre domandare qualche cosa alla mamma quando c'è gente. Lady Royal riprendeva: Vedi i due fratelli, invece, non sanno divertirsi. Ognuno di loro specchia ogni giorno la propria noia sul volto dell'altro. Hanno un castello vicino al mio in Inghilterra. Ci venga quando saremo sbarcati. E le prendeva la mano per invogliarla. Oh sì, mia cara, ci venga. Le presenterò i miei amici. Organizzeremo una caccia. Va a cavallo lei? Oh, benissimo, allora, una caccia. Io vado in Inghilterra per riposarmi. Viaggiare in fondo mi affatica, ma è la sola cosa che mi piaccia. Vado in Inghilterra a fare penitenza. E allora leggo. In nessun paese si legge bene come in Inghilterra. Sto sdraiata in poltrona su uno di quei prati verdi, quei prati che ci sono soltanto là. Conosce la storia? Si dice che un americano chiedesse a un inglese che sistema usassero in Gran Bretagna per ottenere quei prati verdi, morbidi e perfetti. È semplicissimo, rispose l'inglese. Si semina e poi si taglia. L'erba cresce e si taglia di nuovo. Ma tutto ciò per 7 secoli di seguito. Molto inglese la risposta, no? E Lady Armilda rise. E però dà esattamente la sensazione della differenza che passa tra i due paesi. Razza vecchia gli inglesi, esausta. Amano le cose serie e taciturne, le cose da vecchi. Leggono, giocano a golf. Mentre fanno tutto questo, pensano però. Volubilmente cambiando discorso, Lady Armilda disse: Vorrei fare un bridge stasera. Uno dei due fratelli gioca abbastanza bene, ma naturalmente senza fantasia. Lei, io, si potrebbe dire a quell'ufficiale come si chiama? Venier? Deve essere dei Venier di Venezia. È simpatico, è un signore. Ormai è tanto difficile trovare in marina persone così. Sì, lo diremo a Venier. Le fa la corte, no? Mi pare. Un piccolo bridge soltanto, stasera, aveva detto Lady Armilda. Bisogna andare qualche volta a letto presto, fa bene? Dopodomani saremo ad Alessandria e da lì si va al Cairo. Il mio amico egiziano sa che arriviamo. Chissà che accoglienza ci preparerà. Io sono sempre di buon umore quando sbarco in Egitto. Sibyl stava al bar bevendo coi due studenti americani, così ogni notte fino all'alba. Molto divertente, Sibyl. E loro giocavano in un salottino raccolto, una lampada sul tavolo. Ogni poco qualcuno dei passeggeri apriva la porta per vedere che si faceva là dentro. Presso l'oblò, chiacchierando con l'altro fratello inglese e il pastore, stava appoggiato il vecchio principe. Parlavano di politica, calmi, con grandi parentesi di silenzio nelle quali il vecchio tirava fuori il foglietto di carta e cominciava a ripiegarlo mentre alzava gli occhi al soffitto. Scrollava la testa con aria dubbiosa. Eh sì, non c'è che fare, il mondo va in rovina. Arrivavano ai quattro giocatori brani della loro conversazione. E la Cina? Che farà la vecchia Cina? L'inglese tirava boccate di fumo dolciastro dalla pipa e il vecchio, imbarazzato dalla barchetta che aveva nelle mani, finiva per gettarla dall'oblò sul lucido mare. Poi, liberato, guardava in faccia il pastore, quasi per attendere da lui la spiegazione, e apriva le braccia. Che può fare la Cina? I giocatori parlavano soltanto alla fine di ogni partita, poi avevano grandi pause di silenzio, appena le parole necessarie al gioco. E giocavano seriamente. Emanuela, che sedeva di fronte a Venier, guardandolo, ripensava a ciò che Lady Roy le aveva detto. Le fa la corte, Venier. E lei s'era schermita. Non le faceva la corte davvero. Le aveva detto soltanto: ha fatto male a scendere a Istanbul con gli altri. Perché non è scesa con me? Io le avrei mostrato Istanbul mia, cioè una Istanbul che non può rassomigliare a quella di nessun altro. Ognuno ha un suo modo di guardare una città, di interpretarla, di decifrarla, direi. A taluno poi certe città si negano addirittura. Rimangono per lui mute, segrete, inviolabili. Una volta condussi per Napoli un mio amico francese. Gli feci vedere Napoli con i miei occhi. Mi tornò da solo qualche tempo dopo e quando lo rividi mi disse che la città gli era parsa un'altra. Beh, è naturale, l'aveva vista coi suoi occhi. Credo che lei farebbe bene a scendere con me in Egitto. Anche il mio Egitto avrebbe questa volta un'anima nuova. Era caldo. I silenzi ronzavano del respiro vorticoso del ventilatore che smuoveva aria calda, infastidendo senza recare refrigerio. Si sente che è vicino l'Egitto, disse Lady Armilda. È caldo, un caldo diverso, afoso. Un caldo umido, corresse Venier. Tre mani, 150 punti sotto, segnava Lady Roy. Le carte sono a lei, Venier. E poi, non tenendosi più, gli chiese volubilmente: Dei Venier di Venezia, vero? Egli, dando le carte, 1, 2, 3, 4, annuì con un cenno della testa. Sì, 1, 2, 3, 4, sì, la mia famiglia è di Venezia, ma io ho tanti anni che viaggio e non so più quale sia il mio vero paese. Si esce di casa a 16 anni, l'accademia, e da allora finita la casa, finita la famiglia. Dopo tanti viaggi si finisce per non appartenere più a nessun paese. Né a quello dal quale partiamo, né a quello al quale arriviamo. In fondo, 1, 2, 3, 4, la nostra vera patria è il ponte. Aveva finito di dare le carte, sollevava le sue, le apriva. Lady Armilda continuava a lagnarsi del caldo. Ah, che sete! E si versava seltz nel whisky. Emanuela ricordava che Silvia sempre diceva non so che del ponte e Venier riprese: C'è ogni volta l'entusiasmo di partire, di ricominciare. Tanti anni che viaggio e ogni volta quando odo la sirena, lo credereste, mi batte il cuore. Anche a lei? Chiese Emanuela sorpresa. Anche a me. Ogni volta è come se partissi per la prima volta, anzi mi illudo che sia veramente la prima. E questo è forse l'essenziale. E al ritorno? Fece ancora Emanuela. Già, ecco, ad ogni ritorno sento di avere un viaggio di più sulle spalle e che gli anni passano. Lady Armilda, finito di bere, accese la sigaretta, prese le carte e gli altri la imitarono. Due cuori, due picche. Calmamente il vecchio principe seguitava a far scivolare barchette dall'oblò e poi avvicinava la testa all'apertura quasi per seguirle nel viaggio. Dense volute di fumo partivano dalla pipa dell'inglese, si sfacevano mollemente. Il pastore guardava il mare che pareva un cupo smalto e tacevano. Dice bene Lady Armilda, bisogna riposarsi ogni tanto, non ci si può divertire sempre. Ma è divertente anche stare qui a giocare, il bicchiere del cognac vicino, cognac con Seltz, a forza di berlo a poco piace. Quattro picche. Contre. Sta bene? È Venier che gioca, dai Venier di Venezia, quelli del Doge. Ha ragione, Lady Royle, è difficile trovare un ufficiale così. Si giocano quattro picche allora. Fine.